Vuoi proporre e realizzare attività di animazione culturale e sociale? Oppure vuoi informazioni sulle associazioni del territorio che fanno già attività per bambini, adolescenti, anziani e famiglie? Se vuoi proporre e realizzare attività di animazione culturale e sociale, puoi rivolgerti all'ufficio del tuo quartiere che se ne occupa. L'ufficio ti dà informazioni sulle associazioni del territorio che fanno attività per bambini, adolescenti, anziani e famiglie. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all'ufficio Reti e Lavoro di Comunità.